Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche e soprattutto di finanza, mi riferisco da un lato alla vicenda Telecom Italia e soprattutto, chiamiamola così, la lotta con Telefonica per l'operazione brasiliana e vi arriveremo tra un attimo. Dall'altro parleremo anche della vicenda che riguarda invece la Fiat. Perché dico finanza? Perché sono ambedue casi anche di borsa, in maniera diametralmente opposta, oserei dire. Perché Fiat è il peggior titolo, perde adesso il 2,64% tra quelle a maggiore capitalizzazione, è arrivata a perdere più del 3% con un minimo toccato a 7,13 euro, ben sotto il prezzo di recesso per la fusione Fiat Chrysler. Allora, ci sono vari elementi che dovremmo chiarire, perché poi c'è tutta la parte che riguarda il diritto di recesso, ma pesa oggi anche il report. Voi sapete come la pensiamo sui report degli analisti, delle banche d'affari. Lo dico ancora una volta, a nostro avviso sarebbe importante ogni volta che una banca d'affari che possiede probabilmente o potrebbe possedere anche i titoli di cui va a giudicare, chiarire l'esposizione e chiarire quello che ha fatto con questi titoli. Perché lo dico? Perché va tutto bene, ma insomma il report di Credit Suisse avviene con un timing, con un tempo così abbastanza singolare. Perché lo dico? Perché Credit Suisse ha avviato la copertura del titolo con un rating underperform, quindi che dovrebbe andare peggio delle attese, e un prezzo di riferimento a 6 euro per azione. Dicono gli analisti, nonostante i successi dell'amministratore delegato Marchion negli ultimi 10 anni, oggi sembra esserci poco spazio per sorprendere positivamente. E inoltre la fusione, diciamo, e la quotazione poi successiva negli Stati Uniti è il primo passo, potrebbe essere il primo passo verso un possibile aumento di capitale. Perché dico che il tempo è quantomeno singolare, il timing è singolare? Perché domani scade il termine entro cui gli azionisti che hanno votato contro la fusione Fiat Chrysler possono esercitare il diritto di recesso, e il gruppo Fiat ha accantonato, il recesso vuol dire che non vogliono fare parte, escono diciamo dall'azionariato. Il gruppo infatti ha accantonato mezzo miliardo di euro per far fronte a queste richieste. Potrebbe non essere sufficiente, qui iniziano i primi così mal di pancia. Poco fa si è saputo che Norges Bank riaffiora tra gli azionisti rilevanti di Fiat, torna sopra il 2%, ma la banca, che è una banca norvegese, è alla testa, guida diciamo in qualche modo i soci contrari alla fusione con Chrysler. E ripeto, domani è l'ultimo giorno in cui gli azionisti Fiat che hanno votato contro questa fusione possono chiedere il recesso e consegnare i titoli. Può aderire chi ad agosto ha votato contro, ma soprattutto ha votato contro la fusione del lingotto nella società di diritto olandese Fiat Investment NV, che con il nome di Fiat Chrysler Automobiles FCA diventerà la nuova holding, la nuova cassaforte di controllo del gruppo Fiat Chrysler. Ora, l'operazione andrà in porto se per Fiat le richieste di rientro da parte dei creditori e l'esercizio dei diritti di recesso da parte degli azionisti che non vogliono questa operazione non supereranno il mezzo miliardo di euro. Ricordo che i soci di Fiat riceveranno un'azione FCA per ogni azione Fiat più un'azione speciale. E dicevo, questo è il fatto che se domani ci sia la scadenza, che vi siano ipotesi che forse il recesso potrebbe costare di più di quanto non stimato e accantonato da Fiat, e il report con un tempismo perfetto diciamo di Credit Suisse, hanno penalizzato il titolo. Sul report, ripeto, vanno bene, fanno parte dell'attività delle banche d'affari. Vorremmo anche sapere che cosa hanno fatto nel frattempo gli azionisti, o meglio, che cosa ha fatto nel frattempo Credit Suisse, se ha comprato o venduto azioni nel momento in cui usciva o nei giorni precedenti il report. È una vecchia polemica che questo programma porta avanti. Negli anni passati, purtroppo, abbiamo dovuto testimoniare, e mi riferisco anche a 10-12 anni fa, di banche d'affari che da un lato esprimevano un giudizio negativo e poi andavano a comprare, o esprimevano un giudizio positivo e andavano a vendere, per cui il rischio che vi possa essere un conflitto di interessi tra quello che fa la mano destra della banca d'affari scrivendo il report e quello che fa la mano sinistra della banca d'affari stessa acquistando o vendendo azioni, in molti casi facendo l'opposto di quanto non suggerisce il report, beh, è un rischio reale, lo dico senza ulteriori polemiche. Sul fronte invece Telecom, la battaglia per il Brasile porta bene al titolo, più 1,40%, molto forte oggi anche Mediaset, più 4,20%, Mediolanum più 3,30%, Azimut più 3,30%, bene tutto il risparmio gestito. Campari più 1,60, come ST Microelectronics, l'1,5 guadagna Buzioni, CEM 1,40, GTEC e anche CNH Industrial, Telecom Italia, l'1,30 rialzo di Mediobanca e di Pirelli, l'1,20 quello di Todds. E il fronte opposto vede, oltre a Fiat, il Banco Popolare perdere il 2,20, Iux l'1,50, la Pop Milano l'1,20, Snam l'1%, come Terna ed Enel. Ancora ci occuperemo anche delle ipotesi, oggi presente un lungo articolo su Sole 24 Ore, le tre ipotesi, o meglio il tris possibile di interventi sul tavolo del governo per quello che riguarda la riforma delle pensioni. È chiaro che molto si è discusso e ha fatto più che altro notizia il tema delle pensioni d'oro, ma non è solo quello, e anche perché bisogna capire, lo dico prima di arrivare al tema, che cosa si intenda per pensioni d'oro, perché se si intendono solo quelle veramente alte, l'operazione porterà poche briciole nelle casse dello Stato. Se si intendono anche le pensioni, intorno ai 4-5 mila euro, beh, lì il rischio molto forte è di andare a colpire o di dare un'altra batosta a una classe, diciamo, media, uno potrebbe dire medio-alta, per carità, però non è solo un problema nominalistico definire che cosa è pensione d'oro rispetto anche ai contributi versati, se 10.000 o se 4.000 euro al mese di pensione. È chiaro che l'operazione sarebbe completamente diversa, sia come introito nelle casse dello Stato, ma anche come, diciamo, aumento della pressione, in questo caso fiscale, visto che si tratterebbe di raffa, scusatemi il termine, di un aumento della pressione fiscale sulle pensioni di quella fascia. 349 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Non ho detto gli indici, è vero. Allora, dunque, per quello che riguarda la piazza affari, complessivamente più 0,12%, meglio fa Parigi più 0,60%, Francoforte più 1%, Londra più 0,50% e ancora l'America più 0,40%. Ancora per quello che riguarda le altre notizie, la Bulgaria, partiamo come sempre dal fronte internazionale, ha nuovamente sospeso i lavori per la costruzione del gasdotto South Stream, che a noi interessa particolarmente perché è quello destinato a portare il gas russo direttamente in Italia. E il ministro dell'economia e dell'energia bulgaro, Vasily Shotnov, ha ordinato la sospensione dei lavori fino a quando il progetto non risulterà conforme con le norme europee. Si tratta della seconda sospensione dei lavori negli ultimi 2 mesi. E sempre sul fronte dei rapporti UE, in questo caso Russia, la Russia sta studiando eventuali nuove ritorsioni nel caso i paesi occidentali dovessero imporre nuove sanzioni. Lo ha detto lo stesso portavoce del presidente Putin, continuando e aggiungendo: la Russia sta valutando diverse opzioni, abbiamo ripetuto più volte che la Russia non è una sostenitrice della retorica delle sanzioni e non ha iniziato lei, ma nel caso i nostri partner continuassero con queste pratiche non costruttive e anzi distruttive, stiamo studiando nuove misure, non ha voluto specificare quali, ha aggiunto solo che dipenderà dal tipo di misure che i paesi occidentali adotteranno contro la Russia. E intanto il cancelliere tedesco Angela Merkel si recherà a Kiev in Ucraina sabato per i colloqui politici relativi alla crisi ucraina stessa. Rallenta intanto il numero dei passeggeri internazionali sugli aerei. A giugno la crescita, il dato della IATA, è stata del 2,4% su base annua e tra l'altro è rallentata in modo più significativo la crescita dei viaggi nelle classi premium, quindi business e non solo, rispetto alle classi economiche, più 1,8 il premium, più 2,5 quelle economiche. Nel complesso, comunque, nei primi sei mesi dell'anno la crescita dei passeggeri internazionali è stata del 3,7%, che è un dato buono anche rispetto ai primi sei mesi del 2013, e se si guardano tutti i primi sei mesi dell'anno, comunque la crescita più forte, anche se di poco, è stata nel segmento premium, più 3,9% contro un più 3,7% nel segmento economy. Visto che parlavamo di borsa, vale la pena ricordare che 10 anni fa Google, eravamo in diretta, già, mamma mia come passa il tempo, tutti più giovani, anche chi mi guarda dalla regia, dico 10 anni fa Google sbarcava in borsa ed era appunto il 19 agosto del 2004, eravamo in diretta anche il 19 agosto del 2004, non c'era YouTube, non c'erano Google Car, Google Chrome, Google aveva a quel tempo ricavi per 3 miliardi e 200 milioni di dollari, beh insomma a dimostrazione che poi in certi settori la crescita è stata prorompente, impressionante. Pensate che dai 3 miliardi e 200 milioni di dollari che valeva Google 10 anni fa, i ricavi adesso hanno raggiunto 65 miliardi di dollari e ha una capitalizzazione di mercato a questo punto di 400 miliardi di dollari. E i nostri stipendi però in 10 anni non hanno conosciuto la dinamica di Google, lo dico già a chi mi guarda la regia. Inflazione bassissima negli Stati Uniti, i prezzi al consumo sono saliti in luglio dello 0,1%, il dato però è in linea con le attese degli analisti, è il tasso più basso degli ultimi 5 mesi, mentre in Gran Bretagna l'effetto, diciamo, non dico deflazione, ma inflazione quasi vicina allo zero, che si sta spargendo in tutta l'area euro, arriva anche oltre l'area euro, perché la Gran Bretagna sicuramente ha una dinamica economica migliore di quella dell'area euro e lo si vede anche dalla dinamica dell'inflazione, che non è così bassa e quindi non segnala dei consumi così inesistenti o così bassi come nell'area euro e in particolare in Italia e in altri paesi. Però anche in Gran Bretagna si è registrato un rallentamento dei prezzi al consumo e ripeto, è un periodo in cui il rallentamento è un dato negativo. 10 anni fa, visto che parlavamo di Google, nel 2004 eravamo tutti a guardare che l'inflazione non crescesse troppo, non andasse oltre il 3,5%, oltre il 6%, era un altro mondo, oggettivamente parlando. Adesso siamo tutti preoccupati quando l'inflazione non cresce, perché segnala un'economia stagnante, quantomeno, per non dire in recessione in alcuni casi. Ebbene, in Gran Bretagna è calata dall'1,9% all'1,6% a luglio ed è una flessione dell'andamento dei prezzi al consumo superiore alle stime della Banca d'Inghilterra. Dopo questo dato, la Banca d'Inghilterra probabilmente manterrà i tassi di interesse allo 0,5%, che sono un minimo storico per agevolare appunto l'acquisto di denaro, per rendere meno caro l'acquisto di denaro e quindi stimolare i consumi. Oggi duro attacco analisi forse più che attacco del Financial Times alla situazione europea. Dice il quotidiano britannico che l'area euro sta subendo in maniera significativa la malattia cronica di Italia e della Francia, che frena la crescita complessiva dell'area euro e anche del sistema bancario europeo. E continua il Financial Times: la Banca Centrale Europea non dovrebbe seguire l'esempio della Federal Reserve e quindi stampare moneta attraverso l'acquisto di titoli di Stato, come abbiamo spiegato più volte, si chiama quantitative easing, non dovrebbe seguire quella strada per rilanciare la crescita dell'area euro, perché i problemi della regione sono diversi da quelli degli Stati Uniti e affondano le proprie radici appunto nelle malattie croniche di Italia, di Francia e del sistema bancario dell'intera area europea. Italia e Francia, continua il Financial Times, sono messe talmente male che nessun piano di quantitative easing riuscirebbe a farle crescere. Ed è interessante perché il Financial Times aggiunge: alcuni paesi come Spagna e Portogallo sono tornati alla crescita, la Grecia dà segnali di ripresa, i veri malati dell'area euro sono appunto l'Italia e la Francia, l'unica ricetta è fare le riforme e ridurre le tasse. Ora, probabilmente Financial Times ha ragione, ma siccome c'è un tempo incredibile nel nord Italia, dove trasmettiamo, si fa molto parlare di gufi. Vedo che il governo Renzi stesso ha adottato il gufo come elemento quasi metaforico. Rivendichiamo modestamente una paternità, è sette anni che mandiamo in onda il gufo. Renzi era ancora sindaco di Firenze, e allora un gufo al Financial Times, perché la frase, insomma, Italia e Francia sono messe talmente male che nessun piano di quantitative easing riuscirebbe a farle crescere, si merita un gufo. Eccolo lì l'ascoltatore che dice 4.000 euro, 5.000 euro, classe media, lei è veramente, complimenti Barisoni, lei è veramente informato. Ho precisato che 4.000 o 5.000 euro di pensione sono classe medio-alta, sto solo dicendo che c'è una bella differenza nel considerare pensioni d'oro le pensioni intorno ai 10.000 euro oppure nel considerare pensioni d'oro le pensioni sui 4.000 euro, un ragionamento mi sembra abbastanza comprensibile onestamente, con due differenze molto importanti, una sul fronte del gettito fiscale, perché è chiaro che quelle sui 10.000 avrebbero un impatto simbolico, per carità, ma porterebbero poca cosa nel caso dello Stato. Nell'altro caso, come adesso analizzeremo di più, però attenzione che andare a fare un prelevo, un taglio delle pensioni intorno ai 4.000 euro, fermo restando che abbiamo raccontato moltissime volte come metà dei pensionati abbia una pensione inferiore o pari a 1.000 euro al mese, per cui non ci sfugge il dato, ma sto solo dicendo che 4.000 euro, chiamarla pensione d'oro in chi probabilmente questa pensione l'ha ricevuta anche attraverso il versamento dei contributi, forse è, non dico eccessivo, è assume sicuramente un altro significato rispetto alle pensioni da 10-12.000 euro, e si può parlare, a mio avviso, di classe medio-alta quando un dirigente, un professionista che ha svolto ruoli anche apicali ha una pensione di 4.000 euro. Parliamo di classe medio-alta, ma parliamo di classe medio-alta, non parliamo dei ricchi. Adesso non mi fate fare la puntata su questo, ma se mi volete dire che uno con 4.000 euro netti al mese ha un'ottima pensione, ma definirlo ricco, beh, è un'altra cosa, viste le cifre che poi leggiamo sul patrimoni in rapporto anche alle dichiarazioni. Su. Allora, restiamo sul tema delle pensioni, perché in un'intervista di domenica scorsa il ministro al lavoro Poletti ha avanzato l'ipotesi di un taglio alle pensioni appunto più alte per reperire le risorse. No, non c'è l'asticella, cioè che cosa si intende per pensioni alte. Poi il vice ministro all'economia Morando, in una successiva intervista, ha escluso un intervento in materia previdenziale, qui la confusione inizia a regnare sovrana. In realtà, da quello che scrive oggi Sole 24 Ore, sul tavolo del governo vi sarebbero almeno tre ipotesi. Una, contributi di solidarietà sugli assegni oltre una certa soglia, e si parla di 3.000-3.500 euro lordi al mese, ecco il perché il riferimento ai 4.000 euro, ok? Poi un ricalcolo con contributivo pieno di trattamenti misti già in essere, che vorrebbe dire un taglio di circa il 30%, e poi l'ipotesi di prestito pensionistico sul modello dell'ex ministro Giovannini, ex presidente dell'Istat, cioè si va in pensione prima ricevendo un assegno che viene poi ripagato a rate quando scatta il vero e proprio assegno pensionistico. In realtà un contributo sulle cosiddette pensioni d'oro esiste già, lo introdusse per primo l'ultimo governo a guida Berlusconi, prelievo forzoso progressivo sulle pensioni a partire da 90.000 euro l'anno, un taglio del 5% tra i 90.000 e i 150.000 euro, del 10% sopra i 150.000 euro e del 15% per i redditi pensionistici oltre i 200.000 euro. Faccio notare che oltre 200.000 euro di pensione le hanno 600 cittadini. E questo contributo forzoso fu poi confermato dal governo Monti, ma bloccato da una sentenza della Corte Costituzionale che bocciò il provvedimento ritenendolo discriminatorio dal momento che riguardava solo i redditi dei pensionati e non di tutti i contribuenti. Poi capite perché è difficile in questo paese fare politiche economiche e non solo economiche. Il governo Letta l'anno scorso ha reintrodotto un contributo di solidarietà per le pensioni oltre i 90.000 euro l'anno. Eugenio Bruno del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, spero di non aver detto troppe inesattezze, ma insomma l'articolo tuo oggi su Sole 24 Ore che anticipa e delinea appunto i tristi interventi, mi sembra che adesso tu ce li racconterai uno per uno, che vada in questa direzione. Una domanda preliminare però: le dichiarazioni del ministro Morando, del vice ministro Morando, che ha detto no, le priorità sono altre, non rischiano di creare anche un po' di confusione sotto il cielo? Sì, diciamo, forse è stato però un intervento dovuto, perché quelle di Poletti forse sono state una fuga in avanti, nel senso che poiché di questi interventi si ragionerà con la legge di stabilità che andrà presentata entro il 15 ottobre, quindi presumibilmente se ne comincerà a discutere dal prossimo mese. Cominciare ad annunciare una riforma delle pensioni, che è un tema caldissimo in questo paese, necessitava da chi ha i cordoni della borsa una prima frenata, quindi dal Ministero dell'Economia. Per cui, diciamo, più che altro serve a probabilmente anche le reazioni politiche che ci sono state, le reazioni sindacali che si sono succedute oggi, serve un attimo a far decantare il tema. A ogni modo, che ci potesse essere un intervento sulle pensioni, diciamo, questo argomento era già venuto fuori nei mesi scorsi, ne aveva parlato Cottarelli di contributo di solidarietà sulle pensioni alte. Quindi, nell'ottica di dover reperire risorse, anche le pensioni potrebbero diventare un terreno di caccia, con un vincolo però. Tu prima hai citato la sentenza della Corte Costituzionale, sì, che ha bocciato il contributo di solidarietà. Ecco, per non andare incontro a una nuova bocciatura, qualunque sia l'intervento, servirà che gli eventuali introiti vengano reinvestiti nello stesso settore, quindi nel caso di specie in quello pensionistico. Ecco, Poletti anche in questo ha fatto una piccola fuga in avanti, cioè ha individuato negli esodati i destinatari dell'eventuale. Quindi, se tu dici, per non avere una nuova bocciatura della Corte Costituzionale, se i soldi che vengono raccolti da questo taglio, diciamo, alle pensioni d'oro, adesso vedremo le tre ipotesi, venissero utilizzati per un fondo per gli esodati, l'elemento sperequativo che, se ben ricordo, discriminatorio, che fu all'origine della bocciatura della Corte Costituzionale, verrebbe meno? Potrebbe farla franca, diciamo, il contributo di solidarietà 2.0 a cui si sta pensando. Questo per dire che una vera ipotesi al momento ancora non c'è, ci sono più ipotesi che i vari consiglieri economici, i vari tecnici, anche dei vari ministeri hanno messo in piedi nei mesi scorsi, ed è da quelli che si ripartirà. Questo vuol dire che io sul Sole di oggi parlavo di tre interventi, non per forza uno esclude l'altro, perché il contributo di solidarietà sui redditi medio-alti, sulla falsariga di quello che già esiste, che ha introdotto Letta e che tu hai riassunto, potrebbe comunque essere confermato oppure ampliato, e a quel punto al contributo di solidarietà si potrebbe anche aggiungere un intervento, ed ecco il secondo appunto intervento, sulle pensioni retributive quelle pre-riforma Dini, sì. Quindi quando l'ammontare della pensione, così per banalizzare, veniva calcolato sull'importo della retribuzione, esatto. Sugli ultimi stipendi, mentre esatto. Adesso sui contributi versati, certo. Sui contributi versati, quindi lì l'idea potrebbe essere quella di ricalcolare tutte le pensioni, o magari quelle oltre una determinata soglia, però questo sarebbe sicuramente un intervento ad ampio raggio. non verrebbe fatto solo sulle pensioni d'oro, d'argento, alte, come le vogliamo chiamare. Ecco, veniamo, veniamo a questo punto, cerchiamo di capire l'asticella, perché dicevo, i calcoli che ho visto fare in questi giorni su un taglio, una, diciamo, una riduzione delle pensioni d'oro, intese come quelle appunto individuate dal loro governo Berlusconi, e cioè chi inizia a avere dai 90 ai 150 mila euro lordi l'anno di pensione, cioè stiamo ragionando intorno ai 10 mila euro medi lordi l'anno, al mese di pensione, è un'asticella. L'altra? Si dovrebbe decidere se abbassare questa asticella e quindi arrivare ad esempio ai 3.500 netti di cui ha parlato esplicitamente Gutwell, appunto il consigliere economico di Renzi, nei mesi scorsi, e quindi scendere un po' dai 7.000 lordi, siamo intorno ai 4.000 netti, ai 3.500 netti, e però farlo in maniera diversa, cioè scendere con l'asticella ma limitarci solo a quelle erogate con il sistema retributivo, oppure restare col contributo di solidarietà attuale e limitarsi a scendere. Diciamo, il problema di questi interventi, l'hai citato tu all'inizio, è che quanto tu più alzi l'asticella, meno soggetti colpisci e meno risorse recuperi. Però scusami, bisogna... Eugenio, adesso mi sono ripreso perché stavo per soffocarmi in diretta, ma fanno notare gli ascoltatori al 349-238-6666, giustamente, che un conto è chiedere un contributo di solidarietà a chi ha il misto o i trattamenti misti, cioè o ha il retributivo, cioè ha avuto un vantaggio oggettivo nell'andare in pensione prima del metodo Dini, e quindi con il calcolo fatto sullo stipendio, adesso la banalizzo anch'io, e non sui contributi versati. Altra cosa è infilarci dentro anche il contributivo, perché a quel punto possono girare di più le scatole, nel senso che sono contributi che la tua azienda, per il gruppo privato, pubblico per chi lavori, ha accantonato, tu hai dato la tua busta paga e con quelli vai in pensione. Cioè è un po' diverso andare a toccare un metodo di calcolo pensionistico che oggettivamente non era più sostenibile, retributivo, gli ultimi stipendi, oppure andare a toccare i contributi che tu hai versato, perché poi voglio dire, giustamente, un dirigente che aveva uno stipendio buono perché se l'era meritato, non è che tutti quelli che hanno gli stipendi alti, adesso iniziamo con demagogia e populismo, non se li sono meritati, un primario, un giudice, un dirigente di un'importante azienda, allora hanno versato i contributi, andare a toccare quelli diventerebbe veramente una tassazione più, ci si spiegherebbe meno il principio, a mio avviso, di così solidarietà, mentre sarebbe più giustificabile con chi è andato in pensione con il retributivo, con il misto. Infatti, se diciamo l'intenzione dovesse essere quella di spingere sul pedale dell'equità, della progressività, a questo punto la soluzione più, diciamo, congeniale sarebbe quella di procedere al ricalcolo solo sulle pensioni retributive o sulle pensioni calcolate col metodo misto. A questo proposito il direttore generale dell'INPS Nori ha però detto, chiaramente l'ha detto qualche minuto fa, che una richiesta di procedere a ricalcolo non è ancora pervenuta all'INPS, ma che è un'ipotesi che comunque sarebbe fattibile, sicuramente più facile per le pensioni erogate nel sistema, nel mondo del lavoro privato, perché c'è un cosiddetto forfettone che è un criterio che calcola lo squilibrio tra quanto hai preso di pensione andando con retributivo e quanto avresti dovuto prendere se fossi andato col contributivo. Per il privato è più facile, per il mondo pubblico è un po' più complicato, ma è fattibile, questo per parole di Nori. Quindi alla fine bisognerà capire se sarà un intervento più di lotta ai cosiddetti privilegi e quindi restiamo in cui potrebbe entrare anche il retributivo, cioè adesso, nella lotta ai privilegi, sì, potrebbe entrare sia la pensione come contributi sulle solidarietà, diciamo dai 100.000 ai 90.000 euro in su, sì, lordi, ma anche il retributivo, perché obiettivamente chi ha avuto la fortuna di andare in pensione con gli ultimi stipendi non, diciamo, paragonati ai contributi effettivamente versati, ha un vantaggio enorme rispetto a chi è andato in pensione e andrà in pensione, perché penso anche alle generazioni future e ai pensionandi, a chi ha lo scivolo, agli esodati, e va in pensione con il contributivo puro, no? Per cui la solidarietà lì sarebbe, sì, più comprensibile forse. Assolutamente. assolutamente sì, è forse un po' più complesso tecnicamente e quindi bisogna capire in base ai tempi, in base alla volontà politica, se ci si vuole avventurare in questo cinepraio. Dammi una scadenza però, perché adesso Renzi anche oggi ha dichiarato il 29 agosto Consiglio dei Ministri, lo spiegavamo già ieri, prima del Consiglio Europeo, e poi a metà settembre inizia, diciamo, già dal Consiglio dei Ministri del 29 dovrà uscire uno sblocca Italia che sarà un'anticipazione della legge di stabilità. I tempi per questo tipo di intervento? Secondo me, per avere delle ipotesi, ecco, non ipotesi sul tavolo, ma ipotesi già esaminate e scartate, ci vorrà metà settembre. Metà settembre. Da metà settembre in poi, avendo chiara l'unica deadline che è metà ottobre, perché deve finire nella legge di stabilità, entro metà ottobre, sì, perché devi già calcolarlo come entrate fiscali, diciamo, per la legge di stabilità, o risparmi, se vogliamo usare un termine più corretto, da parte delle uscite dello Stato. Grazie Eugenio Bruno del Sole 24 Ore. Certo, c'è poi il tema dei vitalizi, l'abbiamo raccontato, quanto spendono le regioni per i vitalizi, ma non è adesso, vediamo di capirci però. I vitalizi sono scandalosi, le cifre e le possibilità che abbiamo raccontato anche nelle settimane scorse di andare a ottenere il vitalizio e la corsa che c'è stata, perché poi anche le regioni hanno cambiato, ma per le legislature precedenti è scandalosa. Detto questo, andrebbero a mio avviso eliminati e basta, cioè è giusto che quando uno fa il consigliere regionale abbia il suo stipendio, il rimborso spese, quello che vuoi, la pensione non c'entra nulla, perché lo stai facendo come atto alto di politica, se no vai a lavorare, torni a lavorare se lavoravi nel posto in cui stavi e ti becchi la pensione che ti meriti. La pensione per uno che fa politica e perché fa una legislatura o due legislature è a mio avviso un obbrobrio. Stavo per dire un'altra parola. Detto questo, però, non è con i vitalizi, che vanno a mio avviso eliminati, che è anche in maniera retroattiva, non me ne frega nulla, ma anche in maniera retroattiva, però non è con quello che risolvi il tema delle entrate fiscali, dei soldi che mancano all'appello, solo 6 miliardi per confermare gli 80 euro più tutto il resto. C'è qualcuno che mi chiede, viste le notizie che stiamo dando nei GR24, se in tutto questo sia corretto pagare 4 milioni di euro l'anno Conte come allenatore della nazionale? No, punto e basta, no. E come prima mossa Tavecchio e la FIGC ha già fatto una cavolata, ok? Perché poi non si può chiedere, io capisco il club è privato e questo vale per il mondo dei privati, l'abbiamo sempre detto, fermo restando che poi anche negli stipendi dei top manager qualche obiezione l'abbiamo fatta nel rapporto stipendio del top manager con stipendio medio del dipendente, ne abbiamo raccontato più di una di come sia esploso questo rapporto in maniera ingiustificata, perché non è che i manager adesso valgano 10 volte i manager degli anni 70, non mi sembra proprio. Ma detto questo, uno può sempre rispondere che resta nell'ambito del privato. In questo caso, dove i soldi sono nostri, no, 4 milioni all'anno non si può sentire, io li legherei proprio ai risultati. Come si fa con i manager? Vediamo cosa fai agli europei e ai mondiali, dopodiché è uno schifo. Dai, merito e pubblicità. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Mi sono beccato anche del populista da bar per le dichiarazioni su Conte. No, guardi, lo confermo tranquillamente. Insomma, 4 milioni all'anno per l'allenatore della nazionale con il periodo che stiamo passando sono uno schifo. Fine, non me ne frega nulla se. A parte che tutto questo mercato concorrenziale non lo vedo, ma insomma non me ne frega nulla. I club privati possono fare quello che vogliono e pagheranno quello che vogliono. A mio avviso ci dovrebbe essere forse anche un. Ma non entriamo in quello, ma. Su quello che è la nazionale pagata con i soldi contribuenti, no, 4 milioni non si possono sentire. E non voglio neanche fare riferimento a come sono andati gli ultimi mondiali, su. Leghiamoli ai risultati, non si può immaginare di legare i risultati, boh. Allora, adesso raccontiamo una vicenda un po' singolare, perché per spiegare quello che sta succedendo al titolo Telecom Italia, che anche oggi è sotto i riflettori, guadagna l'1,40%, si potrebbe usare il teatro dell'assurdo di Ionesco. Perché lo dico? Perché abbiamo Telecom Italia che ha un socio al suo interno che si chiama Telco, che è l'azionista di maggioranza di Telecom Italia. Ok? Dentro Telco, l'azionista di maggioranza di Telco, che quindi è anche indirettamente l'azionista di maggioranza di tutta Telecom, sono gli spagnoli di Telefonica. Perfetto. Che cosa succede? Che è in corso una battaglia in Brasile, dove Telecom ha Team Brasil, per acquisire la brasiliana GVT, che è controllata da Vivendi francese, opera nella telefonia fissa e nella pay TV. Il problema è che questa battaglia avviene tra Telecom Italia e la stessa Telefonica. Io non so che esempio fare, ma è come se ci fosse una battaglia, adesso l'esempio forse non è corretto, ma tu hai Telefonica che è l'azionista di riferimento anche di Telecom e si sta scontrando in Brasile con Telecom stessa. È come se io mi scontrassi con una parte di me stesso, mettiamola in questo modo. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. L'ho brutalizzata un po' troppo come ricostruzione? No, assolutamente. È sicuramente uno scontro intestino quello tra Telecom e Telefonica. Tra l'intestino e il pancreas, esatto, non so perché è una cosa stranissima. Allora, a questo punto, se ho ben capito, siccome tutti e due vogliono questa la società brasiliana GVT, Telefonica, visto che si trova come avversario la società che lei controlla, anche se non con la maggioranza assoluta, vuole uscire da Telecom. E a questo punto Francia o Spagna, purché se magna, entrerebbero i francesi di Vivendi dentro Telecom. Dacci gli ultimi aggiornamenti su questa vicenda un po' così a prima vista paradossale, prego. Questa vicenda sì, probabilmente trascinerà ancora per lungo tempo, nel senso che il prossimo 28 agosto Vivendi dovrebbe ricevere sia l'offerta di Telecom sia potenzialmente una nuova offerta di Telefonica. Quel giorno probabilmente il consiglio di amministrazione di Vivendi valuterà se l'una o l'altra, quale delle due sostanzialmente proposte è più appetibile. Nel mentre però c'è proprio, come si diceva, uno scontro tra l'azionista di controllo e la società controllata. C'è da dire che Telecom di fatto è stata la prima società ad interessarsi a GVT. Telefonica nel mentre ha cominciato a avviare le pratiche per uscire da Telecom e contemporaneamente ha presentato la sua proposta per GVT. Sono due proposte parallele che dal punto di vista finanziario non sono molto distanti. Quella di Telecom, secondo indiscrezioni, sarebbe vicina ai 7 miliardi di euro di controvalore, mentre quella attuale di Telefonica sarebbe attorno ai 6,7 miliardi. Quella di Telecom avrebbe allo stato attuale alcuni contenuti industriali più interessanti e un po' meno quella di Telefonica. È una situazione un po' paradossale. Sì, anche perché Telefonica aveva offerto 4 miliardi, Telecom ne ha offerti 7, da quello che capiamo potrebbe rilanciare adesso la stessa Telefonica, ma la frattura interna, intestina, ormai è compiuta, cioè, nel senso che avere un'azienda di cui tu hai una maggioranza relativa che ti fa la guerra sulla stessa società in Brasile, è chiaro che non ha più senso la partecipazione di Telefonica in Telecom. C'è da dire che Telefonica, come dicevamo, a luglio ha avviato le pratiche per uscire da Telecom, ma siamo ben distanti dal fatto che questo si realizzi, nel senso che ha emesso un prestito convertibile in azioni Telecom con scadenza 3 anni, ha un altro 7-8% di Telecom eventualmente da collocare ancora, e nel mentre resterà azionista di Telecom, nel mentre in cui si deciderà alla fine chi dei due prenderà GVT, quindi è sicuramente una situazione paradossale, come dicevi tu. C'è da dire anche che probabilmente Telefonica si troverà a dover partecipare dal punto di vista decisionale allo sviluppo dell'offerta che dovrà fare Telecom, perché se dovesse essere un'offerta che prevede anche un aumento di capitale come azionista di controllo, evidentemente in un modo o nell'altro Telefonica dovrà esprimersi. Su questo, quindi, tu ipotizzi, non sei l'unica, perché già la borsa scommette una battaglia, anche oggi rialzo dell'1,42%, che si andrà avanti per un bel po'. Sì, tendenzialmente sì. Di sicuro il 28 agosto è decisamente improbabile che Vivendi possa prendere una decisione definitiva su quale delle due offerte possa essere la più appetibile. E comunque a frattura consumata, l'ipotesi che Vivendi entri in Telecom è appunto con in concomitanza, comunque con l'uscita degli spagnoli, si rafforza sempre di più. Sì, assolutamente, nel senso che la proposta di Telecom per essere realizzata prevede per forza di cose uno scambio di carta contro carta. Per cui Vivendi prenderebbe il 20% di Telecom. Tra il 15 e il 20. Tra il 15 e il 20% di Telecom Italia. Grazie anche a Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Allora, adesso andiamo col traffico, poi borsa e la vicenda Fiat. Non vi dico le decine di sms di insulti che sto ricevendo per quello che ho detto su Conte. Allora, è verissimo che metà di questi 4 milioni all'anno li paga la Puma, lo sponsor, ma non è che siccome c'è lo sponsor devi per forza dare. Dopodiché alcuni iniziano a dire, ma il FGC è libero di fare quello che vuole, vuole mettere gli stessi soldi di prima, il resto lo aggiunge lo sponsor Puma. Ho capito, allora sulla base di questo principio paghiamolo quanto cavolo vogliamo. Cioè, voglio dire, è troppo comodo, però lasciate che difenda la politica una volta, prenda sempre con i privilegi in molti casi della politica, poi se si tocca qualcosa che si chiama FGC e non si chiama società privata X non si può neanche esprimere un giudizio. Prendo atto che molti di voi ritengono completamente sbagliato quello che ho detto sullo stipendio di Conte, ma rispondevo all'SMS di un ascoltatore, non era tema del programma, e prendo atto del fatto che molti di voi siano d'accordo che siccome metà dell'ingaggio è pagato dalla Puma, 4 milioni all'anno siano giusti. Che dobbiamo fare? Questo è anche il paese. Traffico. Allora, noi oggi come temi abbiamo la riforma delle ipotesi di taglio sulle pensioni d'oro o pensioni alte, Telecom Italia, abbiamo appena parlato, ora la Fiat e la borsa. Non abbiamo come tema Conte, c'è un programma bellissimo fatto da Carlo Genta e Pardo, adesso insomma sono in ferie anche loro, però insomma c'è Antonio Capuano. Detto questo, se continuate a chiedermi se 4 milioni sono corretti, ho solo risposto a una domanda: no, mi sembrano eccessivi vista la retorica che si fa sui manager. Allora, scusatemi, tutta la polemica sul top, lo stipendio ai manager pubblici, ma vogliamo mettere la responsabilità di un manager di un'azienda che ha una responsabilità anche legale, che è responsabile nei confronti dei suoi dipendenti? Lì il tetto di 240.000 euro andava bene e tutti l'abbiamo difeso, o meglio quasi tutti, e Renzi è stato applaudito. Se poi uno dice che 4 milioni di euro l'anno per Conte sono troppi, si scatena il mondo e vi meritate 4 milioni a Conte, ma che devo fare? Però è troppo comodo fargli ipocriti coi manager che svolgono, quando lo fanno bene, un ottimo lavoro e hanno grandi responsabilità e carico di lavoro. Adesso, con tutto il bene che voglia la nazionale, sapete che abbiamo fatto anche le dirette sui mondiali con chi vi parla. Però dai, non si può sentire 240.000 euro di stipendio massimo a un manager con le responsabilità che ha e 4 milioni a Conte all'anno. Non si può sentire. Allora, Fiat. Che succede su Fiat? Succede che domani scade il termine entro cui gli azionisti Fiat possono chiedere il recesso, quelli che non hanno firmato per la parte di la fusione con Fiat Chrysler Automobiles, quindi la quotazione in Olanda. E nel giorno in cui mancano, o meglio a 24 ore prima della scadenza, se ne esce un report del Credit Suisse che dice: attenzione, il titolo è underperforming, lo valutiamo 6 euro per azione e non i 7 passa che quota adesso. Per la precisione, il titolo ha chiuso con un meno 2,90% a 7,40 euro. Andrea Malan, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Insomma, un po' singolare anche questo report il giorno prima che scada la possibilità per tutti quelli che non vogliono la fusione di riconsegnare le azioni Fiat. Dunque, i tempi possono essere in effetti singolari. Diciamo che il contenuto del report è assolutamente allineato all'opinione degli analisti stranieri sulla Fiat. Gli analisti stranieri hanno dei target price che vanno dai 4,5 euro ai 7, quindi tutti sotto al valore attuale. Il titolo oggi ha chiuso a 7,17. Gli analisti italiani, gli stranieri tutti tranne due, quindi 9 su 11. Gli italiani hanno tutti target price superiori a 8. Può essere curioso, lascio a voi il giudizio. Comunque certo, diciamo che si inserisce in una linea già ben tracciata. Il pessimismo oggi Credit Suisse dice in sostanza: dopo la fusione non vediamo grandi fattori positivi per il titolo. I mercati vanno ancora così così, la ripresa in Europa è un po' avanti e indietro, il mercato americano forse è vicino ai massimi, in America Latina sappiamo che ci sono delle difficoltà, eccetera eccetera eccetera. Quindi è un report, diciamo, che si basa su fattori industriali anche, oltre che finanziari. Detto questo, cosa succederà domani alla mezzanotte? È molto difficile da dire, dipenderà sicuramente in gran parte dagli investitori istituzionali che hanno le quote maggiori. Sappiamo che Fiat ha posto un tetto di 500 milioni all'esborso, cioè man mano che la gente recede è Fiat che deve ricomprare i titoli. Quando la spesa supera i 500 milioni, ha detto Fiat, c'è una condizione messa nero su bianco, l'operazione non si fa più. Cosa succede? Chi ha receduto rimane invece col titolo in mano e non se ne fa niente, o meglio, se ne farà qualcosa, ha detto Sergio Marchionne, più avanti verrà riproposta l'operazione, magari fra 3 mesi, magari fra 6, a condizioni diverse. Quindi è ovvio che per chi ha in mano il titolo e vuole recedere c'è un rischio che troppi recedano, paradossalmente. E cioè che i 500 milioni messi da parte dalla Fiat non bastino, questo è il rischio. Non bastino, esatto. Marchionne ha detto, se non bastano noi l'operazione non la facciamo più perché non vogliamo spendere troppo. Poi è chiaro che, parere personale, se i 500 milioni dovessero essere 510, ricordiamo che il tetto di 500 milioni vale al netto, cioè una volta che Fiat ha ricevuto le azioni, prima di spendere i soldi le offre in opzione ai propri soci. Uno di questi, il principale, è la Exor della famiglia Agnelli, che ha il 30%. Se gli Agnelli comprassero 10 milioni di azioni, a questo punto l'esborso per Fiat riscende sotto quota 500 e l'operazione si fa. È molto difficile. Facciamo un esempio: l'anno scorso CNH Industrial, stesso gruppo, stesso tipo di operazione, approvata a stragrande maggioranza, lì recedette solo lo 0 e qualcosa per cento del capitale, però il prezzo di recesso allora era inferiore al prezzo di borsa, quindi evidentemente non conveniva. Qui alla chiusura di oggi il prezzo di recesso è superiore del 7% al valore attuale di borsa, in teoria quindi recedere conviene, anche se chi recede rischia di tenersi il titolo in portafoglio per qualche settimana, se non qualche mese, quindi c'è un rischio che soprattutto per i grandi investitori può essere significativo. Sappiamo quanto i loro gestori siano resti a immobilizzare le posizioni. Allora, dunque, il diritto di recesso scade domani a mezzanotte di domani, giusto, sì. Andrea? Noi ci risentiamo domani, tra l'altro la nostra Livia Zancanera ha realizzato, e ve la faremo ascoltare domani, un'intervista con Luigi Zingales solo sulla situazione per i piccoli investitori, chiarendo anche la posizione Zingale sul diritto di recesso. Grazie intanto ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Allora, ha capito tutto chi dice che io sono un interista ed è per quello che parlo così di Conte, bravo, complimenti. E invece sono d'accordo con chi dice, attenzione, i soldi, la PUM li avrebbe messi comunque per Conte, e la FIGC poteva utilizzarli per il settore giovanile, per esempio, visto che dopo i mondiali si è parlato di questo settore giovanile che non abbiamo. Ma va bene così, va bene così. È giusto che i manager guadagnino, e ha ragione chi mi fa notare che la cannata che gestisce il debito pubblico italiano, il collocamento del debito pubblico italiano, guadagna forse 130-140 mila euro e Conte 4 milioni. Ma forse siamo così, siamo ridotti così anche per queste cose, no? Perché c'è demagogia e populismo sui manager, tutti cattivi, sempre e comunque, e invece se solo dico che Conte 4 milioni all'anno sono uno schifo, e lo ribadisco, vengo travolto dagli insulti. Anche questo è il paese. Noi domani torneremo a raccontarlo dal 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Focus Economia.